tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti a una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale a cura del Circolo Culturale Giordano Bruno di Milano, www.giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale dedicato al centenario dantesco, no? Con tutti i papi messi all'inferno, info@siciliolibertaria.it. Vietato censurare dalla Repubblica del 6 aprile 2021. E qui si fa il nome del più grande malandrino mai apparso in Italia dai tempi di Cesare Borgia, il sottosegretario Giulio Andreotti, famoso per le sue censure bigotte. Ma non erano solo i politici, ma anche i magistrati bigotti e reazionari oscurantisti clericali che impedivano la libera creazione artistica. Anche il Corriere della Sera del 6 aprile dedica ampio spazio addio alla censura dei film che perseguitò Ultimo Tango. Però in più della Repubblica abbiamo proprio l'immagine di Totò che visse due volte con la satira della crocifissione. Abbiamo poi da il messaggero.it del 9 aprile, vittima scrive al Papa, sono stato abusato e il prete trasferito a Ferrara invece di mandarlo via a fare un altro lavoro, non a contatto con i minori, subito gli hanno cambiato la diocesi. Però adesso sul sito retelabuso.org e tutti quelli che per loro sfortuna hanno a che fare con i preti possono controllare se lui è nella lista dei preti pedofili. È molto semplice, basta andare su retelabuso. Un altro mostruoso crimine clericale è segnalato in una rivista storica recente. Nel 1878, mentre era intento a pescare questo prete malefico, gli scoppiò nella mano destra una carica di dinamite che utilizzava per assicurarsi una pesca abbondante. Era un prete tarantino del 1800. Abbiamo poi sul Corriere della Sera del 9 aprile la condanna abusiva di Galileo in base a un verbale infedele. Inquisizione, nel processo del 1633 venne tradita l'impostazione di Bellarmino e della teoria copernicana. Insomma, cosa fecero i preti? Stabilire una voce una cosa, ma al notaio del Sant'Uffizio fu intimato di scriverne un'altra. L'ambiguità del clero, la doppiezza del clero. Le religioni non sono altro che un motivo in più che gli uomini hanno per uccidersi fra di loro. Prete, e se lo conosci, lo eviti. Su settecorriere.it, a cura di lezioni di filosofia di Mauro Bonazzi, abbiamo una pagina dedicata a Giordano Bruno. In effetti, in Bruno, l'idea di un universo infinito si colora di toni grandiosi, persino divini, solo che Dio non è più quell'entità lontana e misteriosa a cui ci hanno abituato i preti. Il gran cacciatore divenne caccia, insomma ci sono questi significati pagani, aristotelici, platonici, eccetera, eccetera. Insomma, una cosa un po' complessa, però c'è anche un'immagine della statua di Giordano Bruno in Campo dei Fiori. Sulle disgrazie del clero dall'Avvenire del 2 aprile. In un mese 23 morti, il Covid continua a ferire il clero italiano. Ricordiamo, quindi marzo 2021, epidemia anticlericale in Italia. In un solo mese 23 preti morti e oltre 200 dall'inizio dell'epidemia. Ecco, tutte le loro preghiere, i loro santuari non sono serviti a niente. Dal suicidio nella storia della Chiesa cerchiamo i preti suicidi del 2011. Adesso vi leggerò quelli di 10 anni prima. Don Franco Rossi, parroco a Viareggio, viene trovato cadavere con una corda intorno al collo. 2011, Don Enzo Fiore, parroco di Poggiorsini Bari, scusate, è rinvenuto morto impiccato dal sacrestano nella tromba delle scale che collegano il suo alloggio alla chiesa. Don Paul Archimbault, sacerdote a Northampton, in Massachusetts, Stati Uniti, si uccide sparandosi. 2011, Don Rodrigo Allende si suicida a Santiago del Cile, accusato di pedofilia. Don Ernst Hindman Jr., parroco a Bay Minette, in Alabama, si uccide nella canonica con un'arma da fuoco, eccetera, eccetera. Insomma, tutti gli anni abbiamo una decina di preti che si suicidano. Ma la Chiesa li ignora assolutamente. Passiamo al mio piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale. Fanatismo religioso. Espressione esasperata del sentimento religioso che porta ad eccessi e alla più rigida intolleranza nei confronti di chi sostenga idee diverse. Fanatismo pseudo-religioso. Esaltazione mistica su base psicotica propria di alcune persone plagiate dalla prete. Fanatismo fideista. Fu attizzato dalla brama di potere dei preti. Falso ecumenismo pontificio. È basato su un falso dialogismo e una copertura ipocrita di interessi economici, esempio quelli dello IOR. E passiamo agli antipapi. Adesso aspetta che trovo il riferimento degli antipapi, arrivo subito. Allora, dicevo degli antipapi, questi nemici dei papi, che abbiamo iniziato a leggere già da qualche numero, sono ben 43 gli antipapi, no? Siamo arrivati all'antipapa Eulalio del 418, scontri armati fra preti a Roma e nella chiesa del Laterano, si ammazzavano fra di loro i preti, che era un piacere. E alla fine l'antipapa Eulalio fu sconfitto e morì in esilio ad Anzio. Abbiamo poi l'antipapa Lorenzo, attorno al 500 d.C., scisma per 4 anni, gravi tumulti fra preti, calunnie fra preti, omicidi fra preti, e anche lui fu sconfitto e morì in esilio. Praticamente quando due cardinali si scontravano per essere papi, quello che perdeva venne dichiarato antipapa e doveva andare in esilio. Bene, saluti alla prossima puntata del notiziario ateo anticlericale. Parco il clero, mo ditemi blasfemo, ma pure se non c'ero la storia non me la scordo per davvero. Parco il clero, mo ditemi blasfemo, ma pure se non c'ero la storia non me la scordo e me la spiego. Che da 2000 anni qui la Chiesa sta a portare violenza, indulgenza, ipocrisia tra le persone. La guerra santa per i loro giochi di potere, addirittura crociata a Gerusalemme ad ammazzare giudei radici della loro stessa religione. Rinnegare la propria cultura, sì, ce ne vuole. Sarà per questo che l'ipocrisia deve regnare, sarà per questo che i loro son giochi di potere. Ti scordi nel Colosseo i leoni che sbramavano, donne innocenti che sul rogo lente bruciavano. Dimentichi invece gli uomini di libero pensiero che torturavano. Il presente è fatto del nostro passato, valutiamolo. Che i preti mangiano le menti come il diavolo, inculcando finti valori ti portano fuori da una sicurezza personale, impedendoti di pensare. Ti vogliono far sottostare alle leggi che vogliono solo il tuo male. Parco il clero, mo ditemi blasfemo, ma pure se non c'ero la storia non me la scordo per davvero. Parco il clero, mo ditemi blasfemo, ma pure se non c'ero la storia non me la scordo e me la spiego. Da quando la guerra è santa, sa che di morte ce n'è tanta. Chi predica il bene favorendo il male per me può pure bruciare questa sporca ipocrisia fuori dalla vita mia. C'è solo una forma di religione che pompa il mio cuore e si chiama amore. Una forma di religione che pompa il mio cuore e si chiama amore. Una forma di religione che pompa il mio cuore e si chiama amore. Senti Manlio come t'abbampa e il Vaticano te spampa. E senta me buono compariamo Manlio come ta sta a cantare. Parco il clero, mo ditemi blasfemo, ma pure se non c'ero la storia non me la scordo per davvero. Parco il clero, mo ditemi blasfemo, ma pure se non c'è la storia non me la scordo e me lo spiego. Il dio denaro domina su questa terra, e lui poi che ci fomenta l'odio e la guerra. Non si può comprare ciò che pensi e ciò che dici, sai che col denaro non ti compri né l'amore né gli amici. Il dio denaro che domina su questa terra, e lui poi che ci fomenta l'odio e la guerra. Non si può comprare ciò che pensi e ciò che dici, sai che col denaro non ti compri né l'amore né gli amici. Vivi limpido con te stesso, consapevole sani principi. Non cadere nella corruzione che porta a frustrazione. Non è con i soldi che si compra la passione. Trova in te stesso la più bella emozione. È il dio denaro che ha portato l'accordo perfetto tra la chiesa e tra lo Stato, distruggendo ogni principio puro del creato, inculcando comandamenti nella tua mente da quando sei nato. Porco il clero, mo dite me blasfemo, ma pure se non c'ero la storia non me la scordo per davvero. Porco il clero, mo dite me blasfemo, ma pure se non c'ero la storia non me la scordo per davvero. Porco il clero, mo dite me blasfemo, ma pure se non c'ero la storia non me la scordo per davvero. Porco il clero, mo dite me blasfemo, ma pure se non c'ero la storia non me la scordo per davvero. Vieni su Monte Calvario anche tu, che